Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, semplificazione, rincaro dei carburanti, l'appello dell'Assemblea per sostenere le aree montane, gli interventi per infrastrutture idriche e stradali. Meno burocrazia, accesso più facile ai servizi per cittadini e imprese, tutela della legalità, del lavoro e dell'ambiente. Sono i tratti salienti del patto per la semplificazione, presentato dall'assessore Paolo Calvano in Assemblea Legislativa. Sentiamo in cosa consiste questo documento dalla consigliera del Partito Democratico Palma Costi. È un lavoro importante perché da un lato introduce l'idea che la semplificazione non è un oggetto a sé stante, ma deve diventare un modo di essere della pubblica amministrazione che ogni volta deve trovare la modalità più semplice, meno costosa e più facile perché i cittadini e le imprese possano avere risolto i propri problemi. Questo sempre con una forte attenzione al tema della legalità e ai rischi che comunque in questi momenti ci sono. L'obiettivo è segnare un cambio di passo per la pubblica amministrazione, anche nell'ottica di favorire il rilancio di investimenti pubblici e privati. Ascoltiamo Silvia Zamboni di Europa Verde. Il patto per la semplificazione, però, come ho sostenuto intervenendo in aula, non deve essere il patto per la deregulation, quindi deve essere a favore di un snellimento delle pratiche, ma mantenendo al massimo controlli, monitoraggio e garanzie, soprattutto per chi lavora, garanzie per l'ambiente, garanzie per la salute. Quindi ci sono ancora degli aspetti che vanno approfonditi, però è già sicuramente uno strumento che può semplificare, ripeto, la vita alle imprese. Critiche le opposizioni. Forza Italia ha invocato celerità in funzione dell'utilizzo dei fondi del PNRR. La Lega ha chiesto un maggior coinvolgimento delle commissioni assembleari. Fratelli d'Italia ha lamentato poca concretezza. Ecco cosa ci ha detto il consigliere Giancarlo Tagliaferri. È stata un'ennesima delusione, è mancata quella concretezza che ovviamente può rafforzare una posizione unanime per cercare di risolvere questo annoso problema. Se ne parla da oltre 20 anni di semplificare, però quando è ora poi di farlo? Si parla solo in maniera molto generica con pochissima concretezza. Impedire che l'aumento dei costi delle materie prime si traduca in un rincaro dei prezzi di GPL e gas metano per i consumatori è quanto chiede una risoluzione del Partito Democratico approvata a maggioranza dall'Assemblea Legislativa. Il documento sollecita provvedimenti simili a quelli già licenziati dal governo per contenere il rincaro delle bollette. Sentiamo che cosa ci ha riferito il consigliere del PD Gianni Bessi, primo firmatario della risoluzione. La risoluzione chiede alla Giunta di intervenire, di interloquire con i ministeri competenti e con il governo per intervenire sul caro prezzi dei carburanti metano, GPL, GNL. Il tema dell'aumento dei carburanti è da tempo al centro di numerosi atti in assemblea che sollecitano interventi per arginare il carovita. Per l'esponente della Lega, Emiliano Occhi, il problema riguarda anche l'impoverimento dell'Italia nel settore energetico, sempre più dipendente dal gas importato dall'estero. Sentiamolo. In Emilia-Romagna c'è una forte tradizione sul metano per autotrazione, si è sviluppata nel tempo una grande filiera, meccanici e anche tante persone utilizzano mezzi a metano. Il mezzo a metano si è diffuso molto anche nelle autotrasportatori, quindi era in corso, diciamo, una transizione verde verso l'utilizzo del metano. Ecco, l'aumento enorme dei prezzi del metano mette a rischio tutto questo. Ma cambiamo argomento. L'Assemblea ha approvato una risoluzione in favore delle aree montane. Il documento chiede di creare zone franche con una fiscalità agevolata per imprese e cittadini dell'Appennino. Ascoltiamo le parole del primo firmatario Michele Facci della Lega. Non sono sufficienti provvedimenti spot o provvedimenti una tantum come quelli che la Regione porta avanti ciclicamente, occorre una fiscalità di vantaggio, un reale incentivo a famiglie e imprese per inserirsi, insediarsi e soprattutto mantenersi nei territori montani. La risoluzione va in questo senso, chi vive in montagna deve essere avvantaggiato rispetto a chi sta in città, perché tanti sono gli svantaggi e, diciamo così, le controindicazioni che naturalmente un riequilibrio è necessario. Sempre in tema di montagna, Igor Taruffi ha presentato un question time alla Giunta. Nel suo atto, il consigliere di Emilia-Romagna Coraggiosa ha chiesto aggiornamenti sulla situazione della statale Porrettana, in particolare sulle nuove opere stradali che sposterebbero il traffico fuori dai centri di Vergato e Marzabotto. La Regione, ha spiegato l'assessore Corsini, ha approvato una convenzione con ANAS e nel quadriennio 2021-2025 si dovranno trovare le risorse per realizzare le varianti. Sentiamo Taruffi. Credo che sia un passaggio molto importante, su quel territorio insistono centinaia e centinaia di imprese che danno lavoro ad oltre 11.000 addetti, per cui l'infrastruttura, il potenziamento dell'infrastruttura è fondamentale, così come è fondamentale per il rilancio del comparto turistico. E a questo proposito l'assessore Corsini, sempre rispondendo ad una mia sollecitazione, ha anche confermato l'impegno della Regione per stringere un uguale accordo con RFI in modo tale da potenziare la ferrovia, anche la ferrovia porretana, con il raddoppio da Marzabotto a Bologna. E dalle infrastrutture stradali a quelle idriche. Marco Mastacchi di Rete Civica ha sollevato il problema della mancanza di collegamento alla rete idrica nelle abitazioni di diversi comuni dell'Emilia-Romagna. Nel suo question time ha chiesto alla Giunta di usufruire delle risorse del PNRR che dovrebbero ammontare a oltre 4 miliardi di euro. Ascoltiamo Mastacchi. Ho pensato di fare questa question time all'assessore per chiedere se una parte di questi fondi potranno essere destinati alla realizzazione e al completamento di queste reti idriche che consentono di mantenere i cittadini sul territorio, che sono un presidio importante per le nostre zone rurali. Siamo al termine della nostra puntata. Nella prossima parleremo in particolare di agricoltura sociale. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Avete ascoltato Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini, Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire. Direttore Mauro Sardi.